cui nome è detto resta in vita. Lì per lì sembrava solo una poetica immagine dei rapporti tra vivi e defunti. Questi in qualche modo continuano a vivere finché si parla di loro, finché il loro nome e la loro memoria tornano nei discorsi dei loro cari. Io però ho preso il versetto alla lettera, come si vedrà. Così è nato il libro. Di più non posso dire, altrimenti toglierei ogni sorpresa al racconto. No, non c'è più niente da fare qui. Come sarebbe qui? Voglio dire, su questo pianeta. Bisogna emigrare, andar via. Già, per capitare magari in un pianeta abitato soltanto dalle mosche. No, signore, io conosco il pianeta adatto. Il nome di questo pianeta si chiama il pianeta Terra. Lo vedete lassù? Quel puntolino di luce azzurra? È quello. So da persona sicura e degna di fede che sulla Terra vivono milioni di bambini e di ragazzini che appena sentono nominare i fantasmi nascondono la testa sotto le coperte. E qui la storia finisce. E non è finita, perché loro sono in viaggio per venire sulla Terra. Adesso tocca a noi fare finire questa storia. Cari stronesi, stroniotti e stroniani, come telefonicamente d'accordo vi mando questo pezzo inclassificabile, indescrivibile, forse anche abbastanza complesso, forse addirittura divertente. I nomi cusiani c'entrano quasi solo per gioco, ma la soglia di quel quasi mi sembra abbastanza ambigua. È l'ultimo giorno del 79, una bufera di neve assolutamente insolita nel territorio della Tuscia mi ha appena abbattuto un pino. Mia moglie sta per entrare in clinica per un'operazione alla cistifellea. Dopo di lei ci entrerò io per un complicato affare alla circolazione arteriosa della gamba sinistra. Così comincia allegramente l'anno bisestile. Ma l'articolo per la vostra rivista mi ha aiutato a finire alla macchina da scrivere l'anno vecchio. Mi ha perfino fatto nascere progetti in versi, in prosa, in treno, in automobile. Mi pare proprio che non convenga affatto morire. Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto l'inferno ci sarà già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice e cornuto, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice e cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo considerano tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Quando la morte mi chiederà di restituirle la libertà, forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà. Se